la versione di Oscar, Giannino. Eccoci qua, 16:37, primi, molta pubblicità, quindi bene per la radio, noi abbiamo poco tempo, però siamo in diretta qui da Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per chi ci ascolta, per chi ci scarica e poi ci sente in podcast. Vado subito al punto del giorno. Voi sapete, l'avrete capito, io non invito fino alle europee politici, candidati, non candidati, eccetera, eccetera. Questo non significa che poi non si parla di politica, però la domanda che facciamo oggi a chi volesse chiamarci all'800240024 è quella centrale nel libro di cui parliamo oggi insieme al suo autore, e vi chiedo: ma secondo voi Renzi, Presidente del Consiglio, leader del PD, ce la farà davvero a contenere o a prendere voti addirittura a Grillo, il Movimento 5 Stelle che sta salendo secondo me e che va meglio delle politiche, e a prendere voti a destra a Berlusconi? Perché l'interrogativo è in realtà quello centrale su cui riflette l'autore di questo libro. Il libro si intitola, voi telefonateci per dirvi come la, per dirci come la pensate, questo libro si intitola, è Rizzoli l'editore, il titolo è Le catene della sinistra, il sottotitolo è Non solo Renzi, lobby, interessi, azionisti occulti di un potere immobile, e l'autore è un giornalista del Foglio che si chiama Claudio Cerasa, che è con noi oggi pomeriggio. Grazie di essere con noi, Claudio. Grazie a voi, ciao ciao. Allora, questo libro, in 30 secondi lo spiego a chi a casa, sono 300 pagine, è un bel librozzo, a dire la verità, in cui si fa una premessa e poi ci sono, capitolo per capitolo, analizzati, per così dire, le constituency, le comunità di riferimento storiche del PD, ma anche di tutti gli acronimi diversi che in questa Seconda Repubblica aveva come definizione lo stesso partito, erede del PC. E cioè quelli da cui l'autore dice Renzi dovrebbe disancorarsi, perché questo abbraccio è un abbraccio mortale, o comunque letale, pericoloso, cioè capitolo dedicato all'abbraccio tra il PD e i magistrati di Magistratura Democratica e giustizialisti, cioè capitolo dedicato agli ambientalisti nimbi di casa nostra, antagonisti rispetto a qualunque opera infrastrutturale, il capitolo dedicato al sindacato, il capitolo dedicato ai poteri forti, ai banchieri e alle fondazioni bancarie, il capitolo dedicato agli uomini di cultura, del cinema, eccetera eccetera, che pensano solo allo Stato e in nome dei contributi di Stato pensano che si faccia la cultura. Però la premessa di questo libro è: o Renzi riesce a spezzare le catene, appunto, che storicamente l'autore documenta capitolo per capitolo, affondano nei decenni della storia di questo pilastro della sinistra italiana, oppure rimarrà vincolato Renzi a quell'orizzonte massimo di 12 milioni di voti che, alleato anche con la sinistra antagonista, sotto diversi nomi questo partito non è mai riuscito a prendere, quindi restando minoritario e vincendo solo quando la destra si divideva. Allora, la premessa che io faccio prima di parlare capitolo per capitolo all'autore è quello che in realtà mi ha, non dico non troppo convinto di questo libro, Claudio, ma se è così, com'è così, perché non prendere atto che questa è l'intrinseca sostanza della sinistra italiana, e perché non capovolgere il problema è dire che probabilmente i voti di Grillo vengono dal fatto che è la destra che dopo 20 anni è iper al capolinea, che non ha fatto il suo mestiere e che ha detto una cosa, ne faceva un'altra e così via, perché quello secondo me è lo sviluppo che manca davvero, mentre invece tutto quello che scrivi tu ci dice che la sinistra italiana è intrinsecamente forse vincolata a tutte queste constituency. A questa domanda paradossale, per animare il dibattito, no, tra noi, che rispondi? Non è assolutamente paradossale, anzi è drammatica. Il dato di fondo da cui sono partito è che tecnicamente, dal punto di vista proprio tecnico, sulla carta la sinistra è irriformabile, cioè è quasi una missione impossibile, perché ci sono delle radici troppo profonde e che Renzi dovrebbe strappare una pianta e piantarne un'altra. E la sinistra secondo me è simile un po' al mondo dell'impresa del nostro paese, che spesso non rischia e si accontenta della sua rendita di posizione senza investire, senza cercare di andare più in là del proprio naso. Renzi deve cercare di conquistare dei nuovi elettori, un po' come i giornali, no? Che hanno difficoltà a conquistare dei nuovi elettori perché fanno sempre le stesse cose. Renzi però non so se avrà il coraggio in fondo, perché per ora è secondo me nella fase Nanni Moretti, cioè vi ricordate tutti quanti quando Nanni Moretti salì sul palco di Piazza Navona e disse: con questi dirigenti, con 4G non vinceremo mai. Fino a Renzi quella parte lì l'ha eseguita a perfezione, sarebbe un perfetto attore di Nanni Moretti, però le vere sottomazioni che vanno fatte non sono solo quelle dei dinosauri, dei vecchi tromboni della politica, del centrosinistra, ma sono appunto tutte queste catene che tu segnalavi, anche Grillo. Io non sono convintissimo che Grillo oggi sia vada ad assorbire un elettorato di centrodestra. Secondo me, dal punto di vista storico, prima o poi dovremmo renderci conto che se vedo che Grillo è come un fungo che cresce sulla muffa, quella muffa che è stata creata dal centrosinistra, perché ci ricordiamo tutti quanti che nel 2011, quando Berlusconi fallì, non per il complotto ma perché non era capace lui purtroppo di governare, si decide di non andare a votare perché la sinistra non era pronta. In quei due o tre anni è germogliato un elettorato stanco di tutta quanta l'irresponsabilità e anche l'inconsistenza e la non identità del centro-sinistra, e Grillo secondo me è nato soprattutto in questo modo. E però resta il fatto che appunto probabilmente chi come te pensa criticamente che qui non ci sarà mai Blair, hai detto che praticamente è una partita impossibile, e allora è quasi impossibile, giusto? Mai dire che nella storia non può avvenire, anche quello che è improbabile, però forse bisognerebbe occuparsi dell'altro capitolo. Ma intanto occupiamoci di questo capitolo qua. La cosa che mi ha colpito è che per ogni capitolo tu hai trovato dei testimoni di sinistra che hanno accettato con nome e cognome con te. Dei pentiti, però insomma dei testimoni di sinistra che hanno accettato con te di parlare del rapporto sbagliato con il sindacato, del rapporto sbagliato con la cultura, del rapporto sbagliato con... Quando si è trattato del primo capitolo, cioè quello dei magistrati, i due magistrati di cui parli alla Procura di Milano hanno rifiutato di dare il nome, il che la dice lunga. Io non dico di quale procura è per non creare problemi, però effettivamente quando ci sono i magistrati importanti che parlano dei problemi che riguardano la magistratura, si tende a nascondere il proprio nome per paura di essere riconosciuti, per paura di dire davvero le cose come stanno, secondo me. E poi, come dire, purtroppo devo dire che il capitolo è il più attuale, perché insomma le catene che non sono solo della sinistra qua, ma sono del paese, che si intravedono sia nella Procura di Milano, dove se non ci fossero tutte queste correnti incredibili che sono state foraggiate e fomentate anche dal centro-sinistra, non ci sarebbe questa spaccatura incredibile e surreale che sta portando a una fase da fatica. E che i media trattano con un enorme imbarazzo, perché qui stiamo parlando di una procura in cui il capo della procura viene accusato da Robledo, che tutti trattano come se fosse un matto, che è il più indipendente di tutti i procuratori, di gestire discrezionalmente i tempi e le attribuzioni delle indagini, e viene smentito e a propria volta smentisce il capo della procura dicendo mentono, e tutti si accusano di essere mentitori su cose sulle quali secondo me sarebbe necessario un intervento. Invece tutti i media, sapendo che si tratta di cose esplosive, certo, questa cosa la trattano un po' così, con le mani, con i guanti gialli. Esatto, è come se improvvisamente il sangue di San Gennaro non fosse sangue, fosse un'iposca, e non si rendono conto del fatto che, come dire, i totem che sono stati costruiti in questione attorno alla Procura di Milano forse non erano esattamente così infallibili e neutrali come sono stati descritti. E poi però drammaticamente la catena della giustizia si fa collegare con ciò che abbiamo visto la scorsa settimana sul caso Genovese, che secondo me quello è veramente il sintomo di come Renzi, quando cerca di rubare voti a Grillo va bene, ma quando insegue Grillo per andare sul suo terreno, il lettore poi di fronte a un clone di Grillo e Grillo sceglie Grillo, non mi sembra che ci sia molto a discutere. Allora, io temo che sia la politica nel complesso, mentre c'è un rapporto storico per chi è più giovane. Claudio Cerasa in questo capitolo, quello sulla magistratura, ricorda fin dagli anni 60 l'evoluzione e le convinzioni forti espresse in pubblico della magistratura democratica. La magistratura democratica nacque dalla riflessione di magistrati che dicevano: noi abbiamo un compito, quello attraverso l'evoluzione delle sentenze, di accelerare la parte progressiva della Costituzione e di disapplicare le leggi che non ci piacciono. Questo è proprio, sta agli atti pubblicamente. Poi nel tempo però, e dopo Mani Pulita, secondo me tutta la politica italiana ha commesso un errore di fondo, perché i magistrati eletti non stanno solo a sinistra. Il problema è che la politica ha creduto di farsi amici magistrati proponendogli carriere politiche. Secondo me sbagliano i magistrati ad accettarlo, però la politica ha sbagliato anche a destra su questo. Sì, cos'è? Lì è un problema anche di percezione, cioè se entra in circolo un virus e quel virus poi non si accetta di spazzarlo via, la responsabilità è un po' propria. La tesi, diciamo, di fondo di quello che scrivo è che ci sono una serie di realtà alle quali la sinistra ha ceduto completamente la sovranità e anche l'identità. La cultura è quella forse più spettacolare, perché un tempo la sinistra utilizzava il mondo della cultura per esprimere la sua forza, le sue idee, e quindi era quella una fonte di egemonia. Oggi invece artisti, registi, attori, intellettuali, grandi elite di persone con molte camicie di velluto, toppe sulle maniche e cashmere a go-go hanno conquistato letteralmente la sinistra, le hanno imposto un suo modo di pensare, un suo pensiero, e questo ha costretto, secondo me, la sinistra ad essere eternamente minoritaria, la vocazione minoritaria della sinistra, che poi è assolutamente il nannimolettismo puro dal quale... E tu fai bene a ricordare che quando Veltroni, che prese il partito nel nome della vocazione maggioritaria, basta alleanze spurie, alla fine pure lui però si alleò con Di Pietro e portò Di Pietro in Parlamento. Dico anche di più, scusami, ma non solo si alleò con Di Pietro, ma in questi giorni abbiamo visto anche cosa è successo con Regnano Flaminio. Io ricordo che nel 2008, quando il PD si alleò con Italia dei Valori mise in lista il rappresentante dei genitori di Regnano Flaminio, che venne strumentalmente utilizzato da Di Pietro per raccogliere dei voti, e Veltroni e il PD accettarono di allearsi con quella cosa lì. Allora, abbiamo i 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con Claudio Cerasa a parlare di questo libro, Le catene della sinistra. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48, primi 56 secondi. Traiamo spunto da questo libro, Le catene della sinistra. Leggetelo, compratelo. Rizzoli editore, Claudio Cerasa, giornalista, lavora al Foglio, il suo autore. Sui difetti un pochino di riferimento storici del PD, da cui la domanda è se Renzi avrà la forza di scollegarsi. È vero che, per esempio, sulla parte sindacale, quando dice io non sono iscritto alla CGIL, vi do una notizia, me ne farò una ragione se la Camusso protesta, ci sono dei gesti di rottura rispetto ai suoi predecessori. Intanto però alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Claudio da Verona è convinto che la vera sorpresa il 25, le elezioni saranno i voti della Lega, dice, il perto di relazioni tutti lo davano per morti, penso anch'io, anche Salvini dal 3% a cui era riserverà sorprese. Detto questo, Salvini ha avuto un mandato da Maroni, quello di a qualunque pur di riuscire, questa è la mia opinione, però forse sì, una sorpresa ci sarà. Molti messaggi, questo lo dico Claudio Cerasa e non mi stupisce, dicono però il problema è che chi la pensa come voi dovrebbe dedicarsi ai difetti oramai incommensurabili della destra, perché quelli della sinistra sono noti da decenni. Altri ascoltatori, un pensionato: io pensionato pago più tasso per dargli 80 euro agli altri e questo sarebbe per Renzi un motivo per votarlo? No, io voterò Grillo. Tina ci dice: chi è di destra, chi crede ai valori della destra non potrà mai votare PD, e secondo me ancora meno 5 Stelle. Tina, su questo non lo so, perché io conosco un mucchio di gente che, delusa da destra, vota Grillo, e come lo dicevo alle politiche, e secondo me sarà confermato anche l'europeo. Posso sbagliare, la mia personale opinione. Secondo me il Movimento 5 Stelle ha preso fino alla maggior parte dei voti da chi prima neanche votava, perché è un potenziale taglio netto col passato. Io ero molto titubante, ci dice l'ascoltatore, ma finora quello che hanno detto hanno fatto, e non sono molti partiti che possono dire lo stesso, per questo confermerò il mio voto all'europeo. Questo è Francesco da Roma. Claudio, secondo te, quando Renzi se ne esce con battute, dichiarazioni ferrigne, muscolari, che sono il motivo per cui non piace a metà dei suoi gruppi parlamentari, come per esempio sul sindacato, è una strategia elettorale per fare quello a cui tu lo induci, cioè per prendere i voti che non fanno parte della sinistra, oppure davvero poi romperà per farlo davvero? Perché se uno va a vedere fino a questo momento quel po' che abbiamo visto, il decreto Poletti poi alla fine fa marcia indietro. Guarda, secondo me c'è un dato significativo, intanto, che su molti fronti i nemici di Grillo e i nemici di Renzi sono gli stessi. Da una parte c'è la RAI, da una parte ci sono un pezzo di mondo di imprenditori, da un'altra parte i sindacati, da un'altra parte anche i magistrati. Poi ovviamente ci sono sfumature diverse con, certo, cui vengono declinate questi tipi di queste questioni, però cosa è sorprendente? Poi se Renzi vuole fare davvero queste cose, cioè spezzare tutte queste catene, secondo me in gran parte sì. Oggi però si trova in una condizione molto difficile, perché da una parte bisogna avere veramente un coraggio bestiale per poter spezzare tutte queste catene, perché i gruppi parlamentari di Renzi hanno rifletto un equilibrio che, come tutti sapete, è precedente a questa elezione del segretario, è un'altra epoca, un'altra generazione, un altro patto di sindacato, quindi lì ci sono altre catene complicate che rendono difficile far funzionare l'ingranaggio del governo. Dall'altra parte però è anche molto rischioso per Renzi andare sia dal punto di vista delle parole, dire basta con questi sindacati, vergogna, e però fare anche le cose singolarmente è rischioso, perché andare contro CGL poi sui singoli temi, sui singoli contenuti, rischia di far perdere completamente quel bacino elettorale. Perché la storia è proprio quella lì, cioè voglio dire, nel laburismo britannico, quando arriva Tony Blair e cambia la clausola quella che era il finanziamento, cioè la rappresentanza dei gruppi parlamentari si appoggiava prioritariamente sul sindacato, però una tradizione fabiana c'è sempre stata nella sinistra britannica e veniva dal cartismo. In quella italiana, e diciamo con la fine del psicraxiano, si afferma l'altra parte, quella che io è per questo che ci credo poco al fatto che vive in Anthony Blair. Diciamo, il vero miracolo, che è stato appunto un miracolo, quindi piuttosto difficile, sarebbe quello di far coesistere per la prima volta le due sinistre, le due grandi famiglie di sinistra. Cioè, possiamo dirlo, Renzi sta a poco legittimando il craxismo a sinistra. Questo sì, come è fare il tema di fondo, però non si può dire, perché altrimenti. No, perché poi crax significa gli affari, male, eccetera, porta male, poi sì, significa. Non è elegante. Poi si offendono, quindi, però di fatto è quello, altro che post-democristiano. Va bene, altro che appunto il cattolico della Margherita, per così dire. Intanto arrivano un bel po' di messaggi, lo dico per chi ha dei dubbi, non vogliono dire nulla, perché chi manda un messaggio non è che sia un campione rappresentativo, però per esempio Rosella d'Alessandria dice io voterò Grillo, votavo a destra. Alberto da Treviso, se leggo bene la sigla, sì, dice io ho sempre votato centrodestra e adesso però per fare un taglio netto voto Grillo. Un terzo dice, senza fermarsi, io PD non voterò mai, non potrò votare mai la sinistra, per questo voterò Grillo e prima votavo Berlusconi. Siccome un pezzo, non lo voglio dire il successo di Grillo in quanto tale, ma un pezzo è fatto anche da questo elettorato qua. Adesso si vede nei sondaggi che Berlusconi stenta, sta ben sotto il 20%. Sentiamo come la pensa Ciro, che ci chiama da Reggio Emilia. Prego Ciro. Ciao, niente, no, io volevo gettare un'ombra, un po' di pepe sul discorso Renzi. Sì. Io quando è iniziato ad emergere Renzi, io ero un grande sostenitore, mi piaceva quello che avevi in mente, quello che avrebbe voluto fare e quello che voleva fare. Io penso che sia stato gettato un po' nella mischia da alcuni i classici poteri forti, perché mi sembra veramente impossibile pensare a un così repentino cambio di idee. Certo, lui aveva detto io non diventerò mai premier se non dopo il voto degli italiani. Sentiamo Claudio Cerasa cosa dice su questa tua impressione. Ma quello secondo me è un peccato, cioè tutti i politici si imbrogliano un pochettino su, dicono delle bugie, ma poi il punto secondo me non è la bugia, il punto è se tu commetti una cosa incoerente con quello che ti ho detto, devi poi dare altri contenuti, altra materia per poter riparare al danno. Nel caso in cui Renzi dovesse riuscire a fare anche un quarto, un quinto delle cose che ha promesso, tra un anno nessuno si ricorderà più che è arrivato a Palazzo Chigi tramite una manovra di palazzo. Senti, Richetti, renzianissimo parlamentare, oggi al Messaggero dice se ci bloccano, se c'è un risultato delle europee che è coerente poi a bloccarci sulle riforme, bisogna andare alle elezioni anticipate presto. Tu ci credi? Il Quirinale direbbe sì? Assolutamente sì, anzi io dovessi scommettere che il 25 maggio del prossimo anno si andrà a votare. Vabbè, del prossimo anno però. Del prossimo anno, sì, a ottobre mi pare un po' più complicato perché fare una legge elettorale rapidamente. No, ma infatti secondo me l'implicito è che poi si vota con questa legge elettorale come vorrebbe non anche credo. Io. Questo non penso che credo. Il Quirinale lo impedirebbe. Io non ci credo, ma proprio Renzi sarebbe un modo per ammanettarsi veramente a Berlusconi. Va bene, allora io ringrazio Claudio Cerasa, leggete le catene della sinistra, ma ripeto, il problema è costruire una destra diversa, altrimenti inutile prendersela con Grillo, questa è la mia opinione. Intanto continuate su Radio 24. Appuntamento con me a domani.